Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. Over the last 40 years, dramatically more skeptical. Thanks very signori, much. Signori, signore e signori, sono le 6 e 17 minuti, questa è 24 mattino, iniziamo un po' prima perché il momento è grave, il momento è intenso sulle note di Rule Britannia. Per un secolo è stato l'inno dell'imperialismo britannico. La Gran Bretagna pare, secondo tutti i sondaggi, secondo quanto ha detto la BBC, e in genere la BBC non è che spara così notizie a caso. La Britannia, mi stavo facendo prendere da un moto di imperialismo anch'io. In Gran Bretagna pare che abbia vinto la Brexit. La Brexit. Allora, alcune precisazioni. L'ufficializzazione verrà data dei risultati da Jenny Watson, Chief Counting Officer, che dalla Town Hall di Manchester pronuncerà verso l'ora di colazione il risultato del sondaggio. Ma, secondo tutti le previsioni, quindi se leggete i giornali di oggi, che ovviamente hanno chiuso ieri dicendo probabilmente vince il Remain, secondo tutte le previsioni ha vinto la Brexit. E quindi la Gran Bretagna non è che sia fuori dalla Unione Europea oggi, l'abbiamo detto varie volte, partirà una lunga trattativa tra il governo britannico e le istituzioni europee per capire come governare questa uscita. Però il risultato è questo, guardate qua, la sterlina è già fondata a livelli che non si registravano dal 1985, i futures di Londra crollano del 7%, la borsa di Hong Kong perde quasi il 5%, l'oro, il bene rifugio, accelera invece la corsa, guadagna l'8% ai massimi dal 2008. Insomma, le notizie che arrivano dalla Gran Bretagna parlano di una sorta di dramma in corso, dramma totale. Sentiamo ancora la BBC. The referendum without that. Il Galles vota per lasciare anche il Galles. Signori, ma questo è un momento abbastanza storico, se non togliamo abbastanza e diciamo storico. Anche perché i cittadini hanno votato. Chissà che ne penserà in questo momento se è ufficiale David Cameron, colui che ha indetto questo referendum consultivo per dire va bene, volete decidere allora e decidete. Tanto era sicuro che i britannici avrebbero votato per rimanere in Europa. Però questo è un segno di grande democrazia, eh. Allora, 349-238-6666. Mandateci i vostri messaggi e arrivano già chi dice viva la Brexit. Vabbè. Intanto io voglio salutare Luisella Costamagna. Buongiorno Luisella, come stai? Ti sei Buongiorno. Svegliata? O non sei andata a dormire con Mentana? Sei andata a dormire? No, sei stata sveglia sul Io tonno. Sono andata a dormire con Vespa che si collegava con Shakespeare, che sarà stato pronipote del bardo. Fantastico. Dicendo che vinceva il Remain nell'Unione Europea. Farage che ammetteva la sconfitta più velocemente di Giachetti a Roma. E poi mi sono svegliata con la vittoria della Brexit. Così pare. Sconvolgente. Così pare. Cioè, sei andata a dormire con Mentana. Sei con Mentana, con no, Vespa. Con Vespa. Cioè, ti sei addormentata in due secondi, insomma. Sì. Sei crollata come un sasso. Anche visto, però l'ho vista adesso tra Brunetta e Vespa, per cui furibonda su Davide Serra. Ah, è vero, una lite furibonda, è vero. Questa la dobbiamo recuperare. Guardo subito Lorenzo Nespoli, perché pare che ci sia già sui siti la lite Vespa Brunetta. Ma chi è che ha detto? È Vespa che ha detto a Brunetta chi è lei per decidere chi parla? Sì, perché da Londra c'era Davide Serra, e quindi insomma, il finanziere vicino a Renzi, dai, diciamolo. No, appunto, dare ragione a Brunetta mi dà fastidio, però effettivamente far intervenire Davide Serra senza dire che insomma è vicino, molto amico di Renzi, ma come autorevole rappresentante dei mercati finanziari londinesi. Ma certo, ma lo è, quindi, è un fondatore di Algebris, di un fondo molto quotato, e poi appunto, è vicino a Renzi. Allora, vabbè, che c'entra? Brunetta è intervenuto dicendo: vabbè, dite che l'amico di Renzi, a quel punto Vespa ha sbroccato, chi è lei per decidere chi deve parlare, chi vabbè, no. Comunque tu l'hai chiesto ed eccolo qua. Il vero tema cos'è? Che se io prendo esempio i dati dell'associazione della Confindustria delle sia al suo posto, anche lei sia al suo posto. Lei non ha il diritto. E chi è? Ma scusi, lei che titolo ha? Per interrompere una persona. Enrico Di Renzi. E questo è un peccato mortale? No, è un peccato mortale. No, e allora qual è il problema? Diciamolo. Quanto guadagna? Quanto guadagna? Scusi, o quando la sottomissione politica? Qual è la sottomissione? Qual è la sottomissione? Perché questo tono qual è? Con me? Perché questo no, perché è questo tono suo no, con lui. Io perché? Visto, lei io è un ospite? Lei deve dire, rispettare. Un ospite. Onorevole Bruno. In italiano, onorevole Vespa. No, ci ha stato provato, non è andata bene. Le dodici. A chi l'ha detto? Che io volevo che lei spettacolo. E tu ti sei addormentata, Luisella. Tu ti sei addormentata. Ma uno non deve addormentarsi, finalmente c'era un momento in cui Bruno Vespa, vabbè. Allora, insieme a Luisella Costamagna voglio salutare Flavia Perina. Buongiorno Flavia, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno. Sei addormentata con Vespa anche te, no? L'hai vista? No, assolutamente no. Poi tra l'altro abbiamo questa capacità di trasformare anche insomma i grandi eventi, gli eventi storici in operetta, francamente sono lieta di non averlo. No, ma infatti lieta di non averlo visto, perché ormai tutto questo su di me ha un effetto proprio deprimente. Se effettivamente se ci pensate si sta decidendo, se la Gran Bretagna si sta discutendo, se la Gran Bretagna esce e Brunetta litiga con Vespa. Qualcosa che avrà delle conseguenze a livello europeo, insomma, che cambierà molte cose. Insomma, alla fine la RAI è il servizio pubblico, uno si aspetterebbe che questi argomenti vengano affrontati soprattutto in RAI con meno teatrino. Diciamo, entrambi i soggetti mi sembravano poco adeguati a sostenere una discussione di livello sull'argomento. E vabbè, comunque, insomma, la verità è che qui effettivamente stiamo assistendo a un pezzo di storia, questo è inevitabile e è innegabile perché... Perché adesso l'abbiamo detto mille volte, appunto, non è che domani il Regno Unito esce, però le borse e l'instabilità finanziaria già si tocca con mano proprio così nelle prime ore del mattino. Poi c'è da dire che secondo molti questo darà la stura ad altri movimenti considerati populisti, di destra, dite come quello che volete, anti-europei. Anche negli altri paesi dice a dire e adesso tocca a noi. Flavia, qual è il problema, Milan? Che molto spesso, anche nel modo di raccontare queste vicende, non ci si rende conto che metà delle popolazioni, degli europei, degli italiani, degli inglesi, dei tedeschi, non è che hanno soldi in borsa, hanno 50 euro sul conto, 200 euro sul conto quando, corrente, quando non glieli banca, fottono, forse quando addirittura sotto fottono il materasso, sì. Quindi questo tema delle borse eccetera interessa sicuramente il mondo dell'economia, della politica, ed è un tema molto importante, mm-hmm. ma non tocca neanche lontanamente una grandissima parte delle persone che poi vanno a votare, E allora su in che cosa non gliene frega neanche niente, allora vediamo borse. In che cosa non vengono toccate, la connessione con la loro vita, in che cosa vengono toccate allora le persone che ci ascoltano, molti avranno soldi in borsa ma altri no. Vengono toccate dall'enorme antipatia e delusione che ha suscitato questa Europa, vengono toccate dal fatto che l'Europa viene vissuta come una sovrastruttura che ha messo un cappio alla gola dei popoli, mm-hmm. e l'ha strangolato. Non è così, ma la percezione di tantissime persone alla fine è questa, e non è che ha collaborato soltanto la destra, anche grandissima parte della sinistra. In Inghilterra ad esempio la campagna di una larga parte della sinistra è stata molto tiepida, proprio perché non potevano sostenere la Brexit, però si rendevano conto che anche i loro elettorati in gran parte votavano da quella parte lì. Questo sì, Luisella, insomma, questa è la verità con cui ci svegliamo oggi, che appunto probabilmente vince la Brexit. Che cosa cambia, dice Flavia Perina, per il cittadino comune, al di là della finanza, ma, certo, e dell'economia? Che dici tu? No, ma io saluterei questo risultato, a prescindere dal risultato, come una grande vittoria della democrazia. Ci hanno dimostrato, ce l'aveva dimostrato un anno fa la povera Grecia, ce lo dimostra adesso la ricca Gran Bretagna, che non solo è possibile interpellare il popolo su un tema così importante, ma è doveroso, quindi ci vuole rispetto nei confronti di chi ha il coraggio di interpellare il popolo. Sì. E il secondo elemento, secondo me, assolutamente cruciale, e sul quale, secondo me, sia euroscettici che europeisti convinti devono andare d'accordo e sono sostanzialmente d'accordo, è che l'Unione Europea ha rappresentato un'ingerenza nelle sovranità nazionali, nelle politiche nazionali, saranno i mercati, ma nelle riforme, nell'abolizione dei diritti, questo è quello che la gente ha percepito dell'Europa, che ovviamente ha rappresentato un deficit di democrazia. La Gran Bretagna risponde con la democrazia di un referendum, quindi su questo non sono d'accordo con la Perina. Se la crisi mondiale economica è stata rappresentata dal prevalere dei mercati sulla politica, la politica, lungi dal riprendere il sopravvento, invece insomma è stata schiacciata, lo so, sembrano i discorsi alla Salvini, però da una troica che ha ingerito sulle politiche nazionali. Stai facendo un po' la Salvina. Stai facendo un po' la Salvina. La Salvina, stai facendo effettivamente un po'. No, ma non è la questione, è una questione di merito. A me gli scenari nefasti che vengono presentati adesso, peraltro da scienziati che hanno dato ottima immagine di sé non prevedendo la crisi mondiale, li prenderei con le molle. Con le molle. Intanto c'è da dire che la Scozia ha votato, leggo dal sito della BBC, in Scozia nel referendum ha vinto il Remain, quindi la Scozia sarebbe per il Remain. Con 1.661.000 contro 1.018.000 per il Leave, insomma il 67,2%, con il Premier, la Premier, insomma, che chiamatela come volete, insomma, Nicola Sturgeon, che dice il nostro futuro è nell'Unione Europea. Adesso bisognerà capire, insomma, il nostro futuro è nell'Unione Europea, ognuno poi dichiara come vuole. Mette in crisi l'Unione Europea nei fatti. Ma come no? Ma certo, come questo, ma anche il risultato con cui sono andata a letto ieri sera, con un 48% di Brexit, che è stato un risultato capovolto, mette in crisi l'Unione Europea. Ma voglio dire, questo è un problema che non che esiste, cioè la solidarietà, l'Unione Europea l'abbiamo vissuta da popoli, nel momento in cui c'erano i sacrifici, nel momento in cui si dovevano chiedere soldi, non nel momento in cui si doveva parlare di solidarietà, sia nei confronti dei cittadini europei sia nei confronti dei migranti, perché il grande tema, sottotema che sta sotto il referendum è la politica migratoria. Su questo Certo, molti avranno votato dicendo non vogliamo più immigrati, siamo fuori dall'Unione Europea. Ma questo però accomuna Farage con Cameron, con l'Unione Europea, perché la gestione della politica migratoria dell'Europa non è stata assolutamente né illuminata né solidale. Comunque, secondo me è un segno di grande democrazia. Vorrei chiedere a Flavia Perina, poi andiamo un attimo in pubblicità, ci raggiungerà anche il grande Mauro Corona, lo scrittore. Allora, però, Flavia, sai che Monti ha detto che su queste cose è bene che la popolazione, la brutalizzo, è bene che la popolazione non voti. Non perché, si esprima. Beh, insomma, perché sono cose abbastanza importanti. Ha sbagliato sicuramente a dire questo. Non possiamo però dimenticare che questo referendum è stato un atto di propaganda di Cameron. Cameron stava perdendo le elezioni, non sapeva come restare al potere perché stava perdendo le elezioni. Sì. E interpretando anche lui questo tipo di sentimento antieuropeo che era molto diffuso soprattutto nella sua parte politica, cioè i conservatori, ha indetto il referendum, ha promesso il referendum al popolo e sull'onda di questa promessa ha vinto le elezioni. Quindi è stato anche quello, a suo modo, un atto diciamo singolare. Dopodiché l'intera campagna referendaria si è giocata sul tema degli egoismi nazionali, sul tema dei rifugiati, dei 5.000 bambini siriani mandati indietro da Calais dopo che un ramo del Parlamento aveva invece deciso di accogliere questi piccoli orfani. C'è un lato oscuro di questa consultazione referendaria, che è il lato oscuro degli egoismi nazionali e della volontà di chiudersi dentro i propri confini per non avere scocciature da altri popoli. L'Inghilterra è stufa, ad esempio, di pagare il welfare ai molti immigrati, anche italiani, e molti, ci sono tantissimi giovani e meno giovani italiani che lavorano come infermieri, come ricercatori in Gran Bretagna e che hanno diritto, ovviamente, se perdono il lavoro, al sussidio di disoccupazione e a tutte le garanzie del welfare britannico. Gli inglesi non vogliono più pagare il welfare per queste persone che vengono da altri paesi europei. Quindi il lato oscuro del referendum è il trionfo dell'egoismo nazionale. Non sorprende in qualche modo che lo abbia fatto l'Inghilterra, che nell'Europa ci stava con un piede, perché loro la sterlina l'hanno conservata, non sono mai entrati nel sistema dell'euro. E comunque era un paese dove l'adesione all'Europa non era stata mai convinta fino in fondo. Era stata sempre una cosa a metà, molto contestata, molto criticata. Si è sempre detto, chissà se siamo europei, insomma, in Gran Bretagna. Intanto si registra proprio nel giorno in cui l'Unione Europea esce, cioè la Gran Bretagna esce dall'Unione Europea, questo ormai sembra certificato con la vittoria della Brexit. Chi arriva in Scozia? Oggi chi arriva in Scozia? Luisella, sai chi arriva in Scozia oggi? No, chi arriva? Donald Renzi. Trump. No, Renzi, lo sapevo che dicevi Renzi. Lo sapevo che ti veniva la cattiveria. No, lo sapevo. No, tra poco parliamo anche di Renzi, di politica italiana, della Raggi, perché Renzi oggi fa un'intervista alla Stampa di 2 pagine, dice non arretro di un passo. Comunque, Donald Trump arriva in Scozia, deve inaugurare credo un magnifico campo da golf, però insomma, la coincidenza è proprio questa, arriva lui e fuori la Gran Bretagna. State con noi, tra poco riprendiamo. Come si trasforma una buona idea in un progetto di successo? Con l'innovazione, la creatività e la condivisione. Il sabato mattina Radio 24 diventa la voce del crowdfunding con Crowd Me Up, la rubrica dove le buone idee incontrano ottimi sostenitori. In collaborazione con Eppela, la principale piattaforma italiana di crowdfunding, e Back to Work 24. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding. Il sabato alle 9.30 all'interno di Si Può Fare con Alessio Maurizi. Signori, siamo qui E sono le 6:37 minuti. Anche in Irlanda del Nord, come in Scozia, ha vinto il Remain, rimanere, restare in Europa, in Irlanda del Nord, con il 62,9% dei voti. Ma se vi siete svegliati ora, è bene dire che i britannici hanno scelto, ha vinto, non è ufficiale, ma di fatto ha vinto la Brexit, lasciare l'Unione Europea. Su 382 circoscrizioni è arrivato già il risultato di 334 circoscrizioni e in questo momento i voti per la Brexit sono 1 milione in più rispetto a quelli che vogliono rimanere in Europa e quindi le maggiori TV britanniche, BBC, Sky News, ITV hanno detto la previsione sicura di una vittoria della Brexit. L'ufficializzazione ci sarà, l'abbiamo detto, con l'annuncio verso colazione da Manchester. Ho detto 5.000 parole in inglese, l'ho fatto apposta per Mauro Corona, il nostro scrittore preferito che ritrovo. Mauro, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Mauro Corona, qui l'ascoltano anche Flavia Perina e Luisella Costamagna, che sono con noi. Mauro Corona, perché ieri quando l'ha chiamato dalla redazione il nostro Lorenzo Nespoli ha detto: ma perché tutte queste parole inglesi? Porcaccia la miseriaccia. In questo caso potrebbero essere anche calzanti opportune, ma di solito nella lingua italiana è entrato tutto questo, invece che fare una sosta, una pausa, fanno il pit stop, il breakfast, il coro. Perché dobbiamo scimmiottare? Io vedo in giro gente con scritto, non lo so, Manchester University. Non ho mai visto un inglese in giro con l'Università di Padova o di Bologna con la maglietta. Siamo proprio deboli a volte. Ci sentiamo esterofili. Sì, insomma, no, dovremmo essere noi a dare l'esempio. L'Italia potrebbe vivere di prodotti alimentari, di bellezze e di paesaggi, sì, no? Dovrebbe essere le nazioni d'Europa venire da noi e dire: per favore, dateci un po' di questo, di l'altro. Invece no, siamo un tronco grezzo bellissimo di cirmolo, non c'è lo scultore che lo scolpisce, ma gente che lo rosicchia. Siamo castori. E però, Mauro Corona, adesso guardiamo tutta la Gran Bretagna, questa grande lezione di democrazia. Allora, l'idea che il popolo abbia deciso se rimanere o no nell'Unione Europea, le piace? Ma certo, se andiamo lavandoci la bocca che il popolo decide, che la democrazia hanno deciso di uscire, che escano, ora vediamo cosa succede. Non si può fare neanche parole su questo, hanno voluto uscire, che escano, punto. Sì, anche se abbiamo detto che poi non è così automatico, ci sarà una lunga contrattazione. Da noi si vive di proclami, di uscite, di entrate, ma poi da quando avvengono le scelte che poi nascono i problemi. Uscire o entrare o votare Renzi o quell'altro è facile, sì. E dopo sono i problemi. Intanto è interessante questo. Prima Flavia Perina ci ha detto giustamente: molte delle persone di quello che succede in borsa, perché non hanno averi, non giocano in borsa, non fanno parte della finanza, non sono interessati. Ecco, leggere per esempio in Corea del Sud poco fa, sapete, là c'è il fuso orario, è pieno giorno, hanno convocato una seduta di governo urgente sul caso della Brexit. Londra, la borsa di Londra è vicino al collasso. Che collassi, torneremo a zappare la terra. Ecco, io lo sapevo. Bisogna impiccarci perché l'Inghilterra è uscita. Io penso che la povera gente, quelli che non hanno lavoro, che non arrivano a fine mese, non gliene frega un cazzo che l'Inghilterra sia uscita o no dalla. Sinceramente, scusatemi le parolacce. No, ma qua possiamo fare, capito, Luisella, Flavia Perina, insomma, quello che diceva Flavia Perina. Luisella, hai sentito Mauro Corona? Dice: che collassi la borsa. No, ma è così, cioè, ci siamo fatti condizionare sempre, i mercati crolleranno, adesso ipotizzano una crescita della disoccupazione, come dicevo prima, peraltro gli stessi economisti che adesso pretendono di essere scienziati attendibili quando hanno sbagliato qualunque previsione. Esatto, Flavia è quello I che mercati, si... che i mercati crolleranno, non ci sono dubbi, questo è un fatto catastrofico per i mercati, è un intero sistema economico che si modifica. Vabbè, ma non è che i mercati sono i cattivoni, adesso sì, la guerra. Sì, però non vorrei neanche ci saranno delle conseguenze pesanti, soprattutto su alcune categorie di persone e anche per molti europei, che in Inghilterra ci lavorano, che comprano e vendono dall'Inghilterra, che per tutto il sistema che si muove intorno a un grande stato europeo, è ovvio che ci saranno delle conseguenze, ma queste non sono state, secondo me, ben presenti all'opinione pubblica, che ha deciso, come molto spesso avviene, sulla base di questa grande suggestione, che si sta meglio se si sta fuori dal sistema Europa, soprattutto in ordine proprio al tema dell'immigrazione e degli scambi con gli infatti altri popoli europei. Sarà interessante capire cosa avrà inciso. Io penso ai 150.000 italiani che ci vivono in Inghilterra e che probabilmente avranno delle difficoltà, per loro la vita cambierà sicuramente in peggio, e non è un caso che due regioni come la Scozia, che rivendica l'indipendenza da moltissimo tempo e che adesso farà un referendum per l'indipendenza di nuovo per restare agganciata al sistema Europa, e l'Irlanda del Nord, che con la Gran Bretagna ha avuto un contenzioso non da poco, che ha lasciato qualche migliaio di morti per le strade, hanno votato per rimanere a questo punto nell'aggancio europeo una loro possibile risorsa. Non lo so, Mauro Corona, bisogna capire cosa è successo, ma secondo lei cosa ha inciso per portare gli inglesi, i britannici a dire lasciamo questa Europa? Ma ancora questo, chiamiamolo così improvvidamente, questo campanilismo, sa cosa dicono in Friuli? E fasin di Bissoli, facciamo da soli, fate da soli allora. C'è questa paura che venga il foresto a rubarti il lavoro, a rubarti le cose. Ora, forse avrà inciso però un po', l'immigrazione. Inciso, ma perché? Perché non c'è una società ancora educata ad accogliere? Hanno paura di stare male. Io sto bene col mio gruzzoletto, perché deve intrigarsi qualcun altro? C'è questo egoismo che è anche condivisibile, se vogliamo, questa paura di uno sconvolgimento che toglie la tranquillità. Io ho la mia paghetta, sto bene, perché devo subire le ingerenze di altri? Ecco, c'è ancora questo modo di ragionare. C'è anche da dire che diciamo l'Europa, la Bruxelles mette anche dei lacci, delle pastoie, delle panie che fa difficoltà a far vivere la gente, perché se da noi non si può fare nulla, neanche uno che ha una latteria deve cambiare tutto, perché l'ha detto, le vasche non vanno più bene di rame bensì di acciaio, la piastrellatura alta 4 metri, le finestre di centimetri 127,5 quasi uscirei anch'io, se non fosse per la logica del benessere comune. No, ma sicuramente anche questo inciso, questa Europa vista come insomma una cappa opprimente burocraticamente. Tra l'altro, notizia di un secondo fa, il premier britannico David Cameron, quello che ricordiamo ha indetto questo referendum consultivo, come ci ricordava anche prima Flavia Perina, starebbe pensando a dimettersi dopo la bruciante sconfitta, capito Perina? A dimettersi. Lui ha negato fino all'ultimo, fino a un minuto prima. Sono indiscrezioni, sono indiscrezioni. Comunque non me ne andrò. Anche perché qualcuno dovrà gestire questa fase. Questa l'ho già sentita anche in Italia. È una cosa abbastanza diffusa. Sentita, che ricorda qualche cosa. Gran parte della costruzione del governo italiano, in particolare di Renzi, è fondata su dinamiche che alla fine rischiano di rivelarsi catastrofiche, perché, fatte le debite proporzioni, in Italia a ottobre andremo a votare un referendum costituzionale per il quale nessuna borsa crollerà se passa o se non passa. Fatte le debite proporzioni, però diciamo, in questo momento della storia europea, interpellare il popolo per le classi dirigenti è un grandissimo rischio. Allora andiamo al traffico, poi rientriamo, parliamo oltre che di Brexit di qualcosa di Italia, appunto, perché questa l'ho già sentita, se perdono mi dimetto. Oggi Renzi fa un'intervista alla stampa dicendo non mi dimetto, vado avanti, la minoranza del PD si scordi che torni la politica dei caminetti, delle correnti, e allora tutto avanti così, andiamo. A Milan, io voglio sentire il traffico! Si Siamo qui, sono le 6:47 minuti, siamo in diretta, Flavia Perina, Luisella Costamagna e Mauro Corona. Allora, parliamo anche un po' d'Italia, detto che sì, la Brexit è lì. Corona, Renzi ha perso, che dovrebbe fare Renzi? Dovrebbe dimettersi, ma anche se dove ha vinto? No, non lo so. Sì, vedete, adesso diceva se vincono il no a ottobre me ne vado a casa, poi ha barato dicendo non ho detto che andavo a casa, ho detto che soltanto mi dimettevo dalla politica ma rimanevo. Sì, dovrebbe essere andato da tempo. Senta, le cito una frase di Macedonio Fernandez, no? Che fu il maestro di Borges, no? Parlando di Victor Hugo disse: un insopportabile parolaio. Il lettore se n'è già andato da tempo e lui continua a chiacchierare. Questo è Renzi, secondo me. Il lettore è il cittadino. Cioè questo sarebbe Renzi, un insopportabile parolaio. Parolaio. Il cittadino se n'è già andato da tempo, quindi scoglionato e deluso, e lui è ancora lì che chiacchiera. Certo. Luisella, non lo so, parolaio, sia sulla Brexit sia sul parolaio, che ne pensi? No, allora, volevo già intervenire prima perché, voglio dire, adesso appunto gli scenari nefasti sulla Brexit, io vorrei evidenziare cos'è stato l'Europa, perché gli scenari nefasti che hanno sentito le persone sulla pelle sono state anche l'abolizione di diritti, le riforme che milioni di lavoratori europei hanno dovuto patire, i pensionati, cioè, ma cosa c'entra? Queste sono riforme riforme dei governi. No, cioè. Però questo è stato, cioè, i costi pagati dalle popolazioni, da milioni di lavoratori, pensionati, disoccupati europei e anche migranti, li abbiamo già visti, e questo è il risultato dell'Unione Europea. Non è che il male arriva adesso, probabilmente la svalutazione della sterlina, peraltro sarà anche un volano per la Gran Bretagna sui mercati, non solo europei ma internazionali, avendo un mercato globale. Conseguenze ci saranno indubbiamente anche per chi vive, ovviamente anche gli italiani che vivono. Però insomma tu non la vedi così drammatica. No, i sacrifici che sono stati fatti, i costi pagati dalle popolazioni in Europa, per le scelte, i parametri, il rispetto dei parametri, le lettere inviate all'Italia, dovete tagliare le pensioni, il Jobs Act e anche la riforma costituzionale salutata in Europa come la grande riforma, su cui si pagano dei costi, perché la gente non ha più dei diritti come l'articolo 18 che prima aveva. Questo è il risultato dell'Unione Europea. E su Renzi invece dice parolaio. Credo che ci prepariamo alla Renxit, al referendum di ottobre. Io credo tra i primi, se non per prima, chiesi già il risultato del primo turno, le dimissioni di Renzi in quanto segretario del Partito Democratico. Sì. Il Premier non è in discussione, ma responsabile di un partito che fa le scelte che sono state fatte per queste amministrative e si rivelano come sono state assolutamente fallimentari, deve dimettersi. Ma io non ho capito, per Mauro Corona deve dimettersi, Luisa, ma dimettersi è un trionfo del Movimento 5 Stelle, ma è una disfatta di Renzi, non ci sono dubbi. Ma Corona, ma perché dovrebbe dimettersi? Io non ho capito, Corona perché dovrebbe dimettersi? Tu l'hai spiegato, insomma, ve lo devo dire io e vado a suggestione, non è che sia un politico, un economista, ma perché c'è? Intanto uno non è stato votato, si permette di mettere mano sulla Costituzione, oltre 40 articoli, cioè fa tutto lui, il piccolo duce. Al di là di queste mie suggestioni, è un fallimento la sua politica finora. E quindi secondo me farebbe più bella figura andarsene a casa e chiedere scusa agli italiani anche. Capito, Flavia Perina, qua basta perdere due amministrative. No, due cose velocissime su questo. La prima riguarda quello che diceva prima Luisella Costamagna, la demolizione dello Stato sociale in Inghilterra è vecchia di 25 anni, cioè l'ha fatta la Thatcher. L'Inghilterra ha subito molti meno contraccolpi dall'Europa rispetto ad altri paesi, mentre noi, l'Italia, la Grecia, la Francia e tanti altri paesi europei hanno subito grandissimi contraccolpi nella fase europea, la Gran Bretagna insomma aveva la pratica dei diritti, l'aveva già liquidata 25 anni fa con la Thatcher, che ha fatto strame dello Stato sociale britannico, quindi lì forse è meno giustificato che altrove la rivolta dei cittadini su questi temi. Quanto all'Italia, è evidente che in questo momento Renzi, che era la grande risorsa del PD, quello che l'aveva portato al 40% alle europee, adesso è diventato un grande problema del PD. Perché in questo momento, se non è in discussione, e ancora no perché non ci sono state elezioni politiche, non c'è stato il referendum, il suo ruolo di premier, sicuramente il suo ruolo di segretario di partito è totalmente in discussione, e penso che da questo lui si stia difendendo in questa fase, più che rispondere al paese. Lui in questa fase sta parlando e cercando di rispondere, cercando di tenere comunque sotto controllo il suo partito. Questo in linea generale è un grande danno, perché noi abbiamo un premier che dovrà passare da oggi in poi 2/3 del suo tempo probabilmente a occuparsi della segreteria regionale del Friuli, certo, della segreteria regionale della Puglia e delle aspirazioni di chi vuole fare il vice segretario unico, e sicuramente non aiuterà per quello che riguarda il tema. Si deve occupare di D'Alema, questa è la verità, ecco, si dovrà occupare di D'Alema e francamente in questo momento a noi non è che ci serve un premier che deve passare. Ma lui almeno sulla stampa dice: io mi occuperò degli italiani, facciano pure, però vogliamo fare risentire. Vogliamo far sentire nuovamente Brunetta Vespa, perché veramente Luisella ci ha regalato una perla facendoci ricordare questa cosa. Mauro Corona, senta un po' Brunetta e Vespa. Stava parlando Davide Serra, che è un finanziere, il fondo Algebris a Londra, è anche un amico di Renzi, e Vespa non l'ha detto presentandolo, è un amico di Renzi, e qui Brunetta si è arrabbiata. Senta un po' il vero tema cos'è, che se io prendo esempio i dati dell'associazione della industria delle... Sia al suo posto, anche lei sia al suo posto. Lei non ha il diritto. E chi è? E chi è? E chi è? Ma scusi, lei che titolo ha? Per interrompere una persona? Enrico Di Renzi. Oh, è questo un peccato mortale? Enrico Di Renzi, diciamolo! Qual è il problema? Diciamolo! Solo diciamolo! Guardi, quando la propaganda politica arriva a questo punto, scusi, o quando la sottomissione politica. Qual è la sottomissione? Qual è la sottomissione? Qual è? Vespa. No, perché questo tono suo con lui. Io perché? Lei è un ospite? Lei deve rispondere. Allora, Corona, è più simpatico Bruno Vespa o Brunetta? No, di tutti e due assieme non ne fai uno normale, quindi non mi piacciono né l'uno né l'altro, sinceramente. Addirittura. No, mi fanno orrore quando li vedo. Ah, ecco. Ma non, no, no, scusatemi, non fisicamente. Non si deve mai infierire sul difetto, ma proprio come persone. Come persone, di tutte e due. Sì, mi fanno orrore. Fanno orrore, va bene. Va bene, allora noi dobbiamo chiudere. Io non ho capito, però la Flavia Perina, se è contenta a sto punto di questa Roma che è andata alla Raggi. La Flavia Perina, sapete, aveva detto avrebbe fatto il capo della comunicazione di Giachetti. Per esempio, Raggi che piange al balcone appena si affaccia. Però avete stufato con questa storia delle lacrime delle donne. Vabbè, ogni tanto lo so, scappa, ho capito, ma no, ma io non è che dicevo le lacrime delle donne, però la prima cosa, per carità, l'emozione ci sta, però un bel piantone e via. Sì, l'emozione, la tensione anche, immagino, questa giovane donna si è assunta un compito veramente che avrebbe fatto tremare i polsi a chiunque. Quindi penso che ci sia l'emozione, ma ci sia anche la tensione di una prova di grandissimo livello. Roma l'ha votata in modo così plebiscitario che non le si può dire altro, certo, che buon lavoro, e speriamo che ce la faccia, perché poi alla fine noi siamo tutti romani. Ma è chiaro, è per il bene di Roma, se il sindaco riesce a risolvere alcuni problemi cittadini, saremo tutti quanti molto contenti. Ma questo certo. Intanto il vice cancelliere tedesco Sigmar Gabriel ha appena twittato questo: maledizione, un brutto giorno per l'Europa. Mentre in Olanda, eccolo, lo vedete, il leader dell'estrema destra Geert Wilders ha appena chiesto ufficialmente il referendum sulla permanenza dell'Olanda nell'Unione Europea. Gli effetti primi della Brexit, che quasi sicuramente ormai ha vinto, manca l'ufficialità. Ringrazio Mauro Corona, Flavia Perina, Luisella Costamagna, state con noi perché dopo il giornale radio con le ultime novità, soprattutto Brexit, ma non solo, rientriamo con la rassegna stampa e state qui. Il segnale orario vi è offerto da